sono le ore 8:34 di martedì 8 febbraio 2005. Ho ricevuto un paio di mail che, pur esprimendo commenti positivi su questo podcast, mi pongono delle perplessità. Le perplessità sono legate al fatto che ci sono alcune cose che do un po' troppo per scontate nella realizzazione di queste registrazioni quotidiane. Per esempio, il concetto di becerume è qualcosa di troppo vago, e siccome si tratta di una chiave interpretativa di quasi tutto quello che dico, mi vengono chieste delle precisazioni. Beh, allora, innanzitutto, il becerume non è neanche un neologismo, nel senso che è una parola che sì, viene usata, ma è scorretta, cioè non credo che esista ancora, quantomeno nel dizionario. Magari farò un controllo. Ne ho parlato così tanto, magari in passato, da costituire un po' un freno a parlarne ulteriormente, perché va bene che questo podcast è in realtà una somma di grandi ossessioni, però non vorrei dare un carattere troppo ossessivo a questi sproloqui. In ogni caso, allora, il becerume in realtà è la somma, almeno così come la intendo io, come la intendono anche gli altri blogger che svilupparono questo concetto un paio d'anni fa, è la somma di tutti i comportamenti dettati dagli istinti primordiali e non dettati dalla ragione, fondamentalmente. Quindi già dietro a questo concetto c'è la presunzione di sapere che cos'è un istinto primordiale, che cos'è la ragione, e soprattutto c'è una condanna intima dell'istinto primordiale, che è qualcosa, anche questo, che potrebbe essere oggetto di dibattito. Poi chiaramente non è assolutamente detto che l'istinto primordiale debba essere represso, anzi, ci sono modi molto sani, evidentemente, per dar sfogo a questi impulsi. Però ecco, magari l'ideale sarebbe non farlo davanti a un mezzo di comunicazione. In quel momento sarebbe forse meglio accendere il cervello piuttosto che spegnerlo del tutto. E tipicamente il becerume ha dei driver, cioè ha delle grandi forze, anche forze collettive, che lo rendono assolutamente imbattibile. Tipicamente le due forze principali sono, da una parte, l'arroganza e dall'altra la paura. Se pensiamo per esempio allo stile di Fox News, di cui ho parlato in un vecchio post, indubbiamente in quel caso la paura è il grande driver del becerume prodotto da questa informazione, che si sente in obbligo di autodefinirsi fair and balanced, vale a dire corretta ed equilibrata, proprio per il fatto di sapere nell'intimo di non esserlo. È interessante quando è la fusione di queste due grandi forze, la paura e l'arroganza, a produrre una manifestazione becera, quello che è successo a Rai International, la società recentemente privatizzata, forse il primo esperimento di privatizzazione in ambito Rai, che si occupa della programmazione per gli italiani residenti all'estero e la cui direzione è stata affidata a Massimo Magliaro, con una nomina ovviamente governativa, credo che sia in quota N, ma non voglio sbilanciarmi, soprattutto non voglio giudicare l'operato di questa persona, che probabilmente è la più competente che potesse essere messa su quella poltrona. Non voglio entrare nel merito, però magari sarà anche una persona competente, però quello che ha fatto appena messo piede a Rai International è stata un'epurazione in piena regola, ha svuotato di lavoro le persone che lavoravano e ha messo all'opera tutta una serie di consulenti, soprattutto consulenti locali. Rai International credo che abbia sede a New York, non vorrei sbagliarmi, però alla fine le persone che svolgono il lavoro non sono italiane, e questa è un po' la principale lamentela che è stata fatta in un comunicato sindacale, ovviamente, che potete trovare pubblicato su Digital Sat, che è il portale della televisione digitale in Italia. Ora, chiaramente il discorso potrebbe finire qui ed essere, avere i tipici toni consolatori dell'attacco al governo e della protezione del sindacato. La verità è che fin qui abbiamo parlato solo della manifestazione becera dell'arroganza, vale a dire l'epurazione in questo caso, ma non abbiamo parlato della manifestazione becera della paura, che è appunto, purtroppo devo dirlo, il comunicato sindacale. Cioè, se lo andate a leggere ci sono degli aspetti assolutamente inquietanti, perché da una parte il comunicato lamenta il fatto che i programmisti e i registi siano stati messi a fare gli inviati, con un'accezione negativa del mestiere di inviato che mi sento di respingere al 100%, dato che i più grandi giornalisti come Luigi Barzini Senior, per fare un nome illustre, lo sono stati soprattutto quando sono stati inviati. E poi tra l'altro si tratta di un rifiuto del modello che sembra più moderno del mestiere di giornalista. Cioè, il giornalista è al tempo stesso regista, programmista e inviato. Cioè, ormai il giornalista è una cellula abbastanza indipendente, anche grazie alla tecnologia e anche grazie ai blog, perché no? Quindi il fatto che vi sia qualcuno che deve fare il lavoro sporco senza pensare, l'inviato, mentre qualcun altro che deve solo pensare e stare dietro una scrivania, cioè il programmista e il regista, è qualcosa che mi fa un po' rabbrividire, devo essere sincero. E denota un'impostazione assolutamente becera di questo comunicato. Ma non è purtroppo il punto più basso, perché a un certo punto il comunicato attacca le persone che sono state messe a lavorare come se fosse colpa loro. Vale a dire questa schiera di consulenti che vengono tra l'altro definiti delle signorine. Ora, in questo c'è tutta una serie di manifestazioni becere. Innanzitutto il fatto che i sindacati da sempre abbiano un'impostazione maschilista ed impostazione, cioè un'impostazione assolutamente retro. Dall'altra proprio questo tono dispregiativo di persone che si comunque ritrovano a lavorare, che abbiano comunque una dignità per il fatto stesso di lavorare, quindi mi sento di difenderle. E quindi quello che succede alla fine è riscontrare ancora una volta che tutte le manifestazioni becere, l'arroganza da una parte, la paura dall'altra, alla fine siano prevedibili, come già molto spesso abbiamo avuto modo di ripetere nei nostri racconti ossessivi, anche in video di un paio d'anni fa. Il becerume è prevedibile proprio perché se uno rilassa completamente il cervello e segue anche i propri istinti, riesce subito a capire che cosa accadrà, cioè a capire per esempio che il politico arrogante farà tabula rasa di tutto il lavoro del predecessore, perché è infinitamente più comodo, oppure che il sindacalista preso dalla paura si lascia andare a manifestazioni che mi limito a definire antifemministe, ma non è forse il termine più corretto, di sicuro poco gentili nei confronti dell'altro sesso. Thank you.